la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la spine sulla spiaggia, mi mordo le labbra, non si muove foglia, il mare è una pialla, cadono le stelle e rimango senza fiato, un motoscafo sfreccia su un tavolo argentato, nuvole di siringhe disegnano nel cielo, fanno ciò che vogliono gli uccelli a ciel sereno, on the road spleen, per te che perso trovi la forza di andare avanti, la forza di venirne fuori. On the road spleen, per te che attraversi il vento del deserto e non conti più i tuoi passi. Predicano ai cani per sentirsi meno soli, fanno la guerra ai topi, i gatti con gli stivali, mine vaganti esplodono, on the road spleen, su strade senza bivio, come in un vecchio film, forse ho sbagliato a fidarmi di te, sono un insicuro in cerca di un perché. On the road spleen, per te che perso trovi la forza di andare avanti, la forza di venirne fuori. On the road spleen, per te che attraversi il vento del deserto e non conti più i tuoi passi. Avevo un poker d'assi, ma ora ho solo ossi. Mi tengono compagnia i pesci e cani rossi. Dare anche spogliarsi, avere invece tuffarsi nel popolo dei senza voce, nel mare degli abissi, asparagi giganti nel piatto dei credenti. Sarei vegetariano se solo avessi tutti i denti. On the road spleen, per te che perso trovi la forza di andare avanti, la forza di venirne fuori. On the road spleen, per te che attraversi il vento del deserto e non conti più i tuoi passi. Acciughe mutilate restano incollate sulla faccia di chi ride, siamo in guerra da tre vite, Einstein aveva ragione a spulciare l'universo, forse è proprio lì che troverò il mio posto, nei tuoi occhi tutta la tristezza del mondo, nelle tue mani incenso, oro è un solco profondo. On the road spleen, per te che perso trovi la forza di andare avanti, la forza di venirne fuori. On the road spleen, per te che attraversi il vento del deserto e non conti più i tuoi passi. On the road spleen, per te che perso trovi la forza di andare avanti, la forza di venirne fuori. On the road spleen, per te che attraversi il vento del deserto e non conti più i tuoi passi. La la la la la la la la la.